posso parlare solo qua. Posso parlare solo qua. Già fatto. A Bisese? Sì, già ci sono. E a te ti ascolto, dai. È una seccatura questa storia della 27, non si sa come uscirne. Sì, lo so, io ti ascolto benissimo, ho messo quella da 1,5 metri, una bomba, però è attaccata al ricevitore, ricevo tutto. Mamma mia, lo sai che mi si chiude lo squelch, non c'è niente da fare, questo ripetitore è una dannazione, persino su di te lo fa. Alla faccia, oh. L'hanno alzato, lo sai, l'altro giorno l'hanno alzato, c'era un'autoscala enorme, l'hanno alzato ancora di più. E secondo me stavano aggiungendo le antenne del 5G. Sì, infatti. Ma se danno fastidio questi così qua. Qua in questa frequenza ti dà fastidio, no? Vabbè, poco male. Vuol dire che apro lo squelch manualmente col tatto laterale e ti sento lo stesso. E cappa. Copiato? Sì, signore. Con quella che ho piazzato da 1,5 metri, su una staffa l'ho piazzata, ricevo tutto, il link nazionale, arriva tutto quanto. Eia, eia, e tu mi ascolti pulito oppure sul fondo del quaderno? No, no, pulito ti ascolto io. Peccato però, te l'ho detto, il W ci voleva, il W, quello che non prende colpi. Sì, ho capito. E comunque non ne vale la pena di spendere altri soldi, per qua no, assolutamente, proprio zero totale. E oppure uno di questi, questo non penso che ne prenda colpi, no? Antonello c'è qua? Non lo so, Antonello ci sei? Mi ascolti caro, sì? Certo che ti ascolto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antonello, a me mi senti? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma è possibile? Mi senti Antonè? Sì, ho capito. Antonè, mi ascolti? Sì, io ti ascolto. Aspetta con la verticale se funziona. L'X300, aspetta 2 secondi. Non l'ascolto male, Antonello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Ora, prova. Natale, mi senti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Guarda che sto provando con la verticale. Marco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, PMR, mi ascolti? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Ora. Così è, Natale, un pasticcio. Lo so, Antonello lo sentivo sempre bene, adesso non lo sento. Ma mi viene il dubbio che dipenda da lui, credo che dipenda da lui, perché anche lui arrivava le altre volte. Adesso lo sento in direttiva. Dipende da lui sicuramente, l'ho sentito tutto in mezzo al QRM, tutto scusimignato. Scusimignato. Adesso lo sento, Natalino. Mi senti? E se con la direttiva ti sento, il verticale non riuscivi neanche a sentirmi, non ti sentivo manco a te. Però stai uscendo male, Antonio, non sei il solito, perché mi arrivavi bene prima. La verticale mica l'ho toccata, no? È sempre lì, non si è mai morto. Ah, aspetta, ho capito. Aspetta 2 minuti. Aiutare, non rompere i coglioni. Fanculo a PL, cazzo. È PL che sta girando i coglioni, aspetta. Oh, iaia. Pensavo di arrivarti più forte di prima. Ho toccato il PL adesso, fanculo a me, cazzo. Solo la portante rilevo e basta. E aspetta che sto sistemando il PL. Eccolo qua, adesso mi senti? Sì, io che ti sento. C'è la vostra stazionale, la PL, va a far cuffia, cazzo. E come ti arrivo lì? Segnale 7. te? Bene, ti arrivo, confronto a prima. Ho voglia. Vedi. Però l'X300 non sei un cazzo, messa bassa l'X300 è come avere un lavandino, cazzo, attaccato. Riceve bene, ma in trasmissione proprio non serve un cazzo. Ma più che altro, più della ci vorrebbe una X30, quelle ricevono e trasmettono bene qua. Ah no, ma neanche la X30, io l'ho provata, non funziona bene manco qua, manco quella, figurati tu. Ma piazzata da sola, a distante da qualsiasi cosa, sollevata almeno 3-4 metri dal tetto, se vuoi che funzioni bene. Beh, quello sì, eh. Io ho piazzato quella che avevo nella macchina da 1,5 metri, la Diamond, l'ho piazzata fuori, col ricevitore arriva tutto, una bomba, eh. Te lo sto dicendo, cosa ti ho detto poco fa, se tu metti la Diamond, quella della macchina, attaccata alla pipetta della parabola, lo sai come pompa, un siluro è quell'antenna. Ma poi li puoi fare anche le buche della parabola se vuoi. Li metti il basamento direttamente lì, ti fa il riflesso. No, non ce l'ho più la staffa della cosa. Gli ho messo di quelle staffe palo lunghe per essere lontano dal palo dell'antenna e ricevo abbastanza bene. Però ce l'ho attaccata al ricevitore, capito? Ah, perché non attacchi a coso? Al portatile. Beh, quello che c'hai là. Sì, già va bene questa per il portatile. Beh, se va bene quella, meglio così. Cosa vuoi ti dica io? Io ho provato ieri l'X300 e 20 cm di radiali quasi dal tetto e non mi danno nessun guadagno. Se la piazzo in un palazzo che è la sola, sono sicuro che esce un demonio. Me lo posso immaginare. Tu stavo ricevendo, Marco, con quella che mi hai dato tu, quella piccolina, l'ho modificata e gli ho fatto l'attacco a pelle, l'ho piazzata nella base magnetica grande, quella della Diamond. L'ho piazzata così, c'ho l'antenna per la macchina pure. Ciao Gianfranco, se mi stai ascoltando. E vai qua mai. Claudio Perivella! Che belucca! Vabbè, Bobo! Cazzo, ho provato la X200 a 20 cm neanche dal tetto! Ui! Per carità, cazzo! L'incezione è bellissima, sento a tutti, ma in trasmissione, uia! Ci vuole per forza un palo di 6 metri! Ma è piazzata? L'ho piazzata qui nel terrazzino, neanche a 20 cm dal tetto, figurati, i radiali. L'ho provata così in un piedistallo in ferro, dato per provarla, ma la ricezione è bellissima, ascolto abbastanza tutti. E in trasmissione il problema. E come mai? Perché il modello dell'antenna così, è fatta così, anche la X30 fa lo stesso difetto. Quella che ho regalato io di mio cognato, faceva la stessa cosa, se gli metti un palo almeno da 4-5 metri distante da terra non serve a nulla come antenna, non vede niente. Infatti, tu puoi immaginare. Aspetta, anche io lo devo controllare il telefono. Infatti ti ho detto, secondo me quell'antenna è stata come l'hai messa tu, sopra con l'antenna di TV non va bene, devi metterla da una parte per i fatti suoi. E vedrai che rende. A meno che... adesso mai faccio la prova, voglio provare una di quelle antenne di... che vende coso, come UHF, che fa fino a 500 bassa megahertz, se va bene in trasmissione, è una 1, 2, 3, sono 4, 5 elementi, verticale, costa mi sembra neanche di giro, se esce bene è una stazionaria. Ti piace una di quelle se te le sbatti le balle di quella che ti ha fatto? Quale quelle della Bricomen? Quelle della TV? Pompo, quella della TV stai dicendo? No, ne ho una io che mi hanno regalato. Una Quella per la TV, proprio quella per la TV, HD. Voglio provare una di quelle. Gli aggancio il cavo domani e vediamo come esce. Se esce bene, cosa stai a spendere i soldi in debatta? Ti piace una di quelle, ti piazzi e c'è la biglia in culo. Perché mi ricordo che, adesso mi ricordo qual è, se quella è la spina di pesce o cosa, c'era scritto anche le stazionali addirittura. Quindi penso che quella si possa usare anche in trasmissione. È tutta una cosa da vedere, adesso non mi ricordo perché non c'ho il bigliettino di quella. Però ho letto un giorno stazionale antenna 1 e 1. Ha trovato strano, ho detto che abbiamo scritto stazionale antenna. Ciucchiù, ciucchiù, ciucchiù, chi che vuole intagliela? Luca Cuocuomane. E beh, pronto. Allora, non ti risponde Luca, non ti risponde, no? Cuocuomane, avvenga un Cuocuomane quello. Già lo trovo, quando lo trovo gli strappo il pizzetto brutto che c'ha. Le fai i capelli ricci, li fai. Beh, io scendo giù in ascolto, là. D'accordo, che a dopo. Ciao. Ciao Luca, se mi stai ascoltando. Io Marco, cazzo coglione ne fate scendere questi discorsi. Quando c'è con Gianfranco, cazzo, mi bari un preddi, va i denti. E chi cra? Cagare. Aspetta. Oh. Andrò. Quando finisce. Dimmi, corra. Arrivo. Oh, chi ce l'ha? E poi possiamo contattarli per farci riportare questa roba, però. Avanti. Luca. Luca. Ma dormito io? No, ma stavo guardando la TV. E che altro c'è? Solo sì. No, là c'è già adesso. Ma di te c'è si becca anche duro. Non ho sentito nessuno, adesso lo sta accendendo. E a chi ha acceso adesso? Ero fuori, sono rientrato da poco. Così che è accesa adesso. E beh, tutto bene? Ehi, quando arrivani alla visita di controllo dal diabetologo, adesso devo andare il 1 dicembre, ti vuoi controllare le glicemie anche dopo mangiato, dopo 2 ore. Ah. E io devo andare il 29, devo andare, ah, il 28 anzi, l'altro siamo andati dal diabetologo, il pensiero poteva andare all'oculista. Puoi immaginare, alle tre e un quarto. No, io dovrei andare da... No, però lì in via Zaffarina ancora non sono... E dal pulmologo mi ha detto a telefonare a novembre per darmi l'appuntamento. Purtroppo è un macello, per carità, gatto. Un macello. E va, boh, va visto un poco. Cazzo, da un mese di maggio, fatti un conto, che ha dato l'appuntamento. E ora devo andare fin tutto. Pronto? Senti? Continua così, mi sa, sarà. Ma forza, se tu ti vai in giro, ne vedi poco di niente senza mascherina. Specialmente guerra. Sì, ti sento. Passate imbecille. Quando mai lo sai cosa vedi? C'è un vecchietto che sento, lo senti anche tu. Io senza mascherina, fare in tanti maschi. Mi senti? Che sono tutti quasi, tutti esassati sono visti. Non pensano alla salute, alla salute dell'altro, no? E non tutti visti. Beh, pare che fate esassati visti. E allora, pensavo mai, non si ridi in fuori di disco, c'è che rischi, la vedi, si la vuole. Quindi è gente ignorante, ma ignorante è un bel mio, per carità. C'è qualcuno? Avanti chi vuole entrare. Siete in due parlando, con chi parlo? Io sono Graziano, e tu chi sei? Mi senti? Io ho sentito la voce di un anziano. Come? Tu non sei Lorenzo? No, io sono Graziano e sto parlando in compagnia di Gian Maria. Graziano? E c'era uno che si chiama Lorenzo. No, quello è morto. Qualcuno che si chiama Lorenzo c'è. Gian Maria. Dimmi, Graziano. C'è qualcuno che si chiama Lorenzo. Lorenzo? Non lo so, non ho sentito. No, non l'ha sentito neanche Gian Maria. Per quello che ha detto con la parola morta, attenzione, perché ci sono bambini. Lorenzo, non l'abbiamo sentito lui, non sappiamo neanche chi è. Ma tu chi sei, Gian Maria? No, io sono Graziano, Gian Maria è l'altro, adesso te lo mando avanti. Gian Maria, la cuffi? Sì, già la sento, ma maschio o femmina è? Maleducato, sono femmina, non maschio. Ah, ecco, comunque buonasera, mi è sentita per la prima volta, chi sta cercando Lorenzo così è? No, io stavo cercando con walkie-talkie. Oh, grazie, come ho già detto che non ho capito bene. Sta cercando questo Lorenzo con il walkie-talkie. Capito? Ma noi non lo vogliamo. Magari noi non lo sentiamo. Il walkie-talkie. Evidentemente magari noi non lo sentiamo. Perché quelli sono... piccolini gli apparecchi, capito? Sicché magari hanno una portata minima e non le sentiamo noi, capito? Grazie, ma che walkie talkie stai usando? No, la mia è una radio professionale, non è un walkie talkie, il mio è un GT3TP, questi sono radio professionali, capito? Qual è il walkie-talkie che stai dicendo tu, se ce l'hai tu? Ce l'ho anche io, però è conservato, perché non prende tutte le stazioni, capito? Io ho comprato questi della Chicco, dei bambini, ma non pensavo di sentire voi. Sì, secondo qualche frequenza la prendono quelli, infatti ce l'ho anche io, ma li ho messi a una parte. Parlavo sempre con un bambino che abita lì a Sant'Orsola, poi li ho ritirati e non l'ho più sentito. Capito? Non so. E forse magari qualcuno li conosce lì, magari ha questi occhi tucchi e magari si sente fra loro, però noi non li sentiamo, capito? Grazie. E questa qua arriva un po' benino qua, a momenti si sente bene, a momenti lo sento male, capito? No, io già la stavo sentendo bene, però adesso non lo so, non l'ho sentita adesso. Mi arrivava bene bene, bella forte, là. Evidentemente qua vicino. O a meno che come quel ragazzino che c'era sott'opera, con quel walkie-talkie che ho conservato. Lo sentivo proprio bene bene, però col walkie-talkie. Ti ricordi che ce n'era uno che parlava sempre con noi, come si chiamava quello lì, Grazia, che non l'abbiamo sentito più. Come si chiamava l'altro ragazzo? De Palmas, quel ragazzino. Quello lì non l'ho più sentito io. Oh, non mi ricordo, era venuto anche qua a casa. Te lo ricordi che tra voi a vedere la radio che c'avevo voi. Oh, Katia, scusa se ti faccio una domanda. Fammi. Dimmi, non ti sento. Ma come mai? Io lo uso come baby monitor, ogni tanto mi sento. Perché alcune frequenze, quel tipo di radioline, prendono le onde di questo tipo di radio, capito? Perché? Abbatti i brecchi. A mezzanotte quando lascio il bambino vi sento parlando. Perché fa così, le onde magnetiche, certe onde riesce a prenderle anche quella radiolina lì, capito? Però è a giorni, non è che siano a giorni, dipende dal tipo di giornata prendono, secondo che giornata è non prende, capito, ma secondo te è normale? Perché della Chicco mi sembra troppo strano. Non te lo so dire. Le onde sono fatte così. Sai quante ce ne sono nell'aria? C'è anche la 27 per quello, se per quello. E sono un altro tipo di onde, capito? Perché? Tipi di onde nell'aria che questa radio che c'ho io, per dire, le prende tutte, capito? Ma quello che c'hai tu è solo per i bambini. Io l'avevo preso così, perché lo usavo da casa, quando scendevo invece di prendere il telefono, dovevo chiamare mia moglie e la chiamavo con quello, capito? E lei mi rispondeva. E c'erano un raggio d'azione 5 km mi sembra. Fino a quella distanza così. Break di nuovo per la terza volta. Ehi, a Giulio, stavo parlando con questa ragazza che gli stavo spiegando. Avanti Giulio, non lo so se tu la senti, avanti. Qui, ciao Graziano, ciao Gian Maria e ciao l'amica, non so chi sia. Salutoni, ben ascoltati tutti e tre. Comunque, qui mi arrivate tutti bene, per cui non c'è problema nell'ascoltarvi. Ok, avanti Gio Maria con la buonasera, Giulio da questa parte. Ok, buonasera Giulio, ben sentito. Tu già arrivi. Ti sento abbastanza bene Giulio, per cui tranquillo E anche la signorina o la signora sento benino, però a momenti mi sparisce la radio. Non so se tu la senti la signora, la signorina o la signora che non lo so. Sì, la sento abbastanza bene, direi. No, ma probabilmente nelle nostre vicinanze, per cui già riusciamo ad ascoltarla alla grande. Magari in un momento che non l'ascoltiamo, può darsi che lì si sposti, allora lo sappiamo benissimo com'è la frequenza della UHF, lo sappiamo benissimo come funziona, no? Basta un piccolissimo ostacolo e non lo sentiamo più. Comunque adesso la facciamo venire avanti. Avanti l'amica, con la buonasera, Giulia da questa parte, che sei col tuo nome nativo, vai. Nominativo, io ho comprato questi baby monitor e sento a voi. Vabbè, il nome nativo, il nome di battesimo va bene uguale, non è un problema, Comunque ripeto, io sono Giulio, Graziano e Gian Maria, siamo il 3 più ci sei tu, siamo in 4. Avanti, se no come facciamo a chiamarti? Perché quando si fa il giro bisogna chiamare la persona per non fare confusione, se no uno può riprendere, magari se si riprende insieme non si sente, capisci cosa intendo? Avanti ancora l'amica. Comunque piacere Maria, io vi parlo con questo della Chicco. Ok, io ti ascolto molto bene, ben ascoltata Maria, ti mando avanti di nuovo Graziano, avanti Graziano. Stavo dicendo, c'è al due walkie talkie, Giulio, della Chicco per bambini, però gli stavo dicendo che è strano, però queste frequenze sono così e molte volte prendono anche altre frequenze, magari dipende anche dal giorno, non è così? Beh, certamente sì, ci sono diverse cose da considerare. Evidentemente o nelle nostre vicinanze o perlomeno è correlata agli antenne, che ne so, qualcosa del genere avrà, se no con quello dei bambini 500 millivolt, cioè 1000 watt, praticamente mezzo watt non arriverebbe o da me o da voi, e diversamente non ce la farebbe ad arrivare. Ma non ci interessa quella, a noi ci interessa ascoltarla e basta, chiacchierare, tutto lì. Avanti Gio Maria. Ok, infatti a momenti la sento, a momenti mi sparisce, mi arriva con quel REM, capito? Comunque, la salutiamo a Maria con la buonasera. Ok, avanti Maria, ma quello, conosci quello che stavi cercando poc'anzi? Lorenzo si chiama così, No, io sentivo voi un bambino. Ah, ecco. Grazie, riprendo un attimino. Maria, dai, in che zona sei che stai modulando, che stai parlando, in che zona ti trovi? Per vedere se è distante o vicino. Io sto modulando con un walkie talkie Chicco Medi Taiwan. Sei sparita, E premi bene la portante, perché sennò si interrompe la tua modulazione. Avanti Maria, ci stai ascoltando, capa. È un giocattolo, è della Chicco, Medi Taiwan c'è scritto. Ehi, ma in che zona ti trovi? Quello voglio sapere, per vedere che istanza è lì, per vedere, perché ti sento benissimo qua. Centro di Sassari. Cosa ti perdere? Infatti non è un giocattolo, questa è una cosa professionale, o perlomeno che ha dei parecchi fatti, o perlomeno correlata agli antenne, ma non ci interessa quello. A noi ci interessa che ascoltare e basta, poi per il resto lei può utilizzare quello che vuole, no? Non ci interessa più di tanto, almeno a me non mi interessa. Interessante ascoltarla bene e questo mi fa piacere. Avanti, l'altro amico che è intervenuto, chi è? Oggi un attimino che sta arrivando gente, la vengo subito là. D'accordo Gio Maria, no, ma c'è da qualche altra persona che è intervenuta. Avanti l'amico, che non ti ho riconosciuto, avanti. Avanti l'amico! Sparito, vai. Sparito, non vuole parlare evidentemente, ma comunque faccia come crede, non c'è problema. Avanti Maria. Avanti. Sto cambiando il pannolino al bambino. Allora buon lavoro, ok. Giulio, io ce l'ho quei due walkie-talkie. Popi nuovi, della Intec pure so. Io usavo quando stavo facendo lavori giù in garage per chiamare a mia moglie, uno ce l'avevo qua in cucina e uno ce l'avevo in garage. Capito, invece di chiamarla al telefono la chiamavo con quello. Sì, ma non c'è problema, aspetta che abbasso la radio, qua se no non sento, perché stavo ascoltando anche in 27 MHz, stavo ascoltando, se no mi dava fastidio. Beh certo, oh, grazie. Quelle apparecchiette funzionano bene ugualmente, basta che non ci sia troppa distanza tra le persone e si sente ugualmente bene, non è un problema, già lo sappiamo. Avanti ancora, Graziano. Ehi, io parlavo la mattina con un ragazzino di qua di Sant'Orsola, però poi mi sono stufato e l'ho conservato. E gli venuti. E dico che funzionava bene, perché c'è un raggio di 5 chilometri. Quella radiolina al capo. Sì, grazie, ho capito. Beh, certo, te lo sto dicendo. Se non c'è troppa distanza, anche con mezzo watt, ti fai sentire ugualmente, non è un problema quello. Per cui basta trovare il varco giusto e non c'è problema nell'ascoltare. Vediamo un po' se Maria ha finito con la cambiare bambino. Maria? Sì, ho finito. Ma mi sembra che sei di poche parole però, Maria. Guarda che con noi per chiacchierare alla grande non c'è problema, noi possiamo rimanere anche tutta la sera parlando qua, per cui non c'è problema, siamo abituati, lo facciamo da tantissimi anni, pertanto no, e per noi questo qui è un hobby, è un divertimento più che altro, la sera anziché fare quattro passi in città, soprattutto per il fatto del coronavirus, allora ce ne rimaniamo alla radio, chiacchieriamo, per cui vedi bene, qui ti trovi fra amici, non avete nessun timore. Avanti ancora Maria. Certo, qualche volta mi sento parlare di notte, sembra che sia il bambino che pianga, ma non è così. Di notte, non so, forse qualche volta hai sentito anche di notte, certo, ma non sempre, perché di solito qua sembra che dalle 8 in poi ci sia il coprifuoco, tutti ci ritiriamo e nessuno parla, non solamente in questa frequenza, ma anche nell'altra, per cui non lo so, vabbè, comunque sarà capitato certamente, anzi diciamo che un po' di tempo fa si parlava anche di notte e si facevano anche le ore piccole, però adesso la gente evidentemente preferisce dormire o andare a letto presto o guardare la televisione, che adesso sicuramente così, beh, comunque va bene lo stesso, non è un problema. Avanti Graziano. Ehi, qualcuno ancora già se ne muoveva la notte, se non guarda TV, ma il capaccio si accendono la radio, capito? È probabile che prende anche altre onde, non si sa, bisogna vedere, sapere, io non l'ho mai provato, di giorno sì, quella radio, di notte no, ma e niente. E allora Giulio, mani già maturo, lui di apertologo, avrai si è fatto trasferire al Nuoro e mi hanno dato una donna, una signorina, te l'avevo detto di quell'altro. Cosa vi consigliate allora, visto che il bambino piange e non lo sente, sento a voi? Ho capito, cosa ha detto? Che tipo di radio posso usare per evitare che vi sentite voi a posto del bambino? Cambiare canale, evidentemente, Maria, guarda, questa qui è la frequenza, è 446-081, tu potresti utilizzare il canale 1, questo è il canale 7 di questo apparecchietto, no? O meglio di questa frequenza, potresti utilizzare evidentemente il canale 1 che è 400-446, aspetta fammi ricordare il resto, 006 se ricordo bene, è il canale 1. Per cui lì magari, allora se tu hai quella necessità di sentire il bambino, molto probabilmente ti conviene quel canale, ma se poi hai piacere di scambiare quattro chiacchiere con noi, non solo con me o con Graziano o con Gio Maria, ma tante altre persone che tante volte ci sono, ci fa piacere, non è un problema. E noi rimaniamo sempre sul canale 7, proprio per evitare accavallamenti, perché alle volte magari uno si mette in un altro canale molto vicino e allora ci risolviamo a vicenda. Invece noi già da anni abbiamo scelto questo canale qua e per cui... Se mi arriva dall'1 all'8, vabbè dai, lo userò tranquillamente, girerò la rotellina e così le chiacchiere non fanno male. E beh certo, a noi ci fa piacere, figurati. La porta per gli amici è sempre aperta, per cui va sempre bene, non c'è problema. Tutti quanti siamo liberi di chiacchierare e di fare questione, si chiama questione in gergo radiantistico, dai. Ok, avanti, grazie. Ehi, ma lei l'ha comprato per sentire la figlia magari dalla camera la sua e invece sente anche a noi, se piace la figlia magari noi la compriamo, hai capito? E è capace la nostra figlia che piange o il figlio che piange, capito? Grazie, stai uscendo a tratti adesso, mettiti a posto, mettiti dove eri prima e stai fermo, non ti muovere, se no già lo sai, la radiofrequenza fa brutti scherzi, alle volte ti sentivo, alle volte no, e soprattutto sta arrivando tutto quel ramato. Sì, ma ho capito per quale motivo lo utilizzerebbe questa radiolina, la Maria, per ascoltare la bambina o il bambino. Ma se ci siamo noi su questo canale e lei vuole ascoltare il bambino o la bambina, sicuramente magari non riesce ad ascoltarlo, perché noi magari gli arriviamo più forte, gli arriviamo ed ecco che allora c'è l'interferenza. E le stavo dicendo, se lei ha quella necessità di sintonizzarsi sul canale 1, niente di più, però si fa piacere se rimane a chiacchierare anche con noi, ci mancherebbe altro. Avanti Maria, mi sono spiegato? Sì, va bene, grazie, gentilissimo. Ah, figurati, non è un problema. Se poi hai bisogno di qualche consiglio, noi siamo esperti, ci siamo tantissimi anni. Io ad esempio ci sono 48 anni e mezzo in frequenza, ti puoi immaginare. Per cui qualche consiglio, senza nessuna presunzione, la possiamo sempre dare ai novellini della frequenza. Mi sono spiegato, Maria? Ora vi lascio, dai, sono impegnata perché sta per arrivare mia amante, ma che arrivi mio marito. Vabbè, d'accordo. Affari tuoi, io marito, figurati. Vai pure, io ti saluto allora a questo punto, salutoni. E buon divertimento anche col bambino, cosa vuoi che ti dica? Niente di più, ti mando avanti Graziano per salutarti, così chiudiamo in bellezza. Avanti Graziano. Eia, va bene, ok Maria, se stai chiudendo, ciao, al limite ci sentiamo alla prossima se ti fa piacere, a noi ci trovi sempre qua a chiacchierare, ok, ciao, buon proseguimento di serata, vai Giulio. Buon proseguimento anche voi, un grosso bacio a tutti. Ok, ciao Maria, ricambiate il tutto. Un 88 di simpatia, 88 vuol dire bacio, ma naturalmente virtuale, chiaro, è ovvio, ci mancherebbe. Ciao Maria, salutoni, alle prossime, ben ascoltata comunque, se mi ha fatto piacere. Bene, bene, ciao, ciao. Avanti, grazie, riprendiamo noi. Eia, eia, eia, questa frequenza, boh, ha confuso io, Zinanda, brutto. Grazie, è l'HF, sì, ero venuta a fare, è utile che stai lì, lo sappiamo. Tu quando ascolti bene vuol dire che trasmetti anche bene. Se ti sposti un momento magari non c'è più quel varco e non riusciamo ad ascoltarci in maniera discreta, in maniera decente. Tutto lì, perciò non c'è problema. Io mi sono fatto anche un'antenna, mi sono fatto. E adesso a giugno la monterò, vediamo un po' se va bene, così posso utilizzare la radiolina, la posso utilizzare anche nel piano basso di casa, se no mi tocca stare sempre nei piani alti per questioni di propagazione, di segnale, no? Mentre invece con l'antenna magari metto la prolunga e la posso utilizzare anche dal piano di sotto, anche dalla tavernetta, grazie. Però non ho ancora le gaffe, non lo posso installare, capito? Giulia, la bricome, assaggi, sempre due stampe, ma di quelle col trappano, fai il buco, si rentra e appicchi. Beh, lo so con Grazia come si deve fare, ma tu lo sai, io lo sto uscendo già da un bel po' di tempo, ecco, solo in caso di necessità, per cui no, non è che insomma, tanto cosa vado in giro? In giro non ci puoi andare, non puoi incontrare un amico, non puoi incontrare un'amica, non puoi prendere un caffè insieme a degli amici, non puoi, devi andare in giro con la mascherina, tanto vale, me ne rimano qua a casa, perché è inutile stare lì, se poi incontri magari una persona e devi stare a distanza, no, non andare bene. Preferisco rimanermi a casa, il tempo lo passo lo stesso, un po' al computer, un po' alla televisione, un po' sdraiato sulla poltrona, dalla poltrona faccio un salto al divano e così via, e le giornate passano ugualmente, oh, grazie. Un po' in 27 ad ascoltare QSO e a chiacchierare nell'altra frequenza, non c'è problema. Avanti, grazie. Non ti do torto, l'altro giorno io, che era bella giornata, ha detto, beh, va, figlia, mi faccio un bel giretto in moto, ma è capace che incontro qualche vecchia conoscenza. Beh, allora, mi ho girato tutti e tre i quartieri, non ho trovato un cane e un cane in giro. Qua me ne sono tornato perché ero proprio demoralizzato, proprio tutti morti giù. A dire a trovare una persona, non ha di cucciadunza, manco un cane. Perché la gente sta incominciando a ritirarsi di nuovo per questo fatto del virus, per cui lo sa come funziona, ma lo sappiamo, no? Io prima uscivo sempre tutte le mattine mancabilmente, andavo lì in via Pascoli, al Moccador, cappuccino e pasta, e non c'era giorno che non andavo, ma adesso da quando c'è questa storia qua, e cosa vuoi fare? Ripeto, devi stare con la mascherina, entri al bar, devi stare distante, ma gambero quasi va, tanto vale, me ne rimango a casa, esco solo quando devo fare delle cose importanti che non posso rinunciarci, e ci vado e basta. Anche ieri sera sono uscito, sono andato all'Ottolino, a proposito, grazie, due tappi mi ero accavato dalla Lecce, due olive avevo, caspita, per forza ogni tanto mi si tappava l'orecchio, le orecchie anzi, e allora sono andato da questo medico e con la pinzetta mi ha tolto due tassilli. Caspita quanti erano grandi, 100 euro, 102 euro, ha voluto buttare 2 euro, perché dice una tassa, non so come, vabbè, comunque non è un problema, è interessante stare bene. Meglio te l'ho detto, se tu tratti il gottofiocco, non è che te lo pulisce bene, te lo spinge dentro, prendono questo liquido che si spruzza e ti neccia la zona, non te l'ha detto l'ottorino? Ma io veramente il cotonfiocco non l'ho usato mai, in vita mia ho usato il cotonfiocco, perché lo sapevo benissimo che se tu metti il cotonfiocco lo spingi sempre dentro, sino ad arrivare al timpano, e dunque non è corretto fare una cosa del genere. Per quanto riguarda poi quell'affare che si spruzza nell'orecchio, l'ho usato per 4-5 giorni, ho visto che l'orecchio non si tappava, allora sono dovuto andare per forza dall'ottorino, e l'ottorino ha risolto subito in un attimo, ha preso una pinzetta, mi ha detto siediti un attimo, gira la faccia da questa parte, gira la faccia dall'altra parte e così via. Ha entrato la pinzetta e ne ha tolto un battufolo sia da un orecchio che dall'altro. E mi ha detto che lavoro facevi, gli ho detto il lavoro che facevo io, e beh certo, i rumori eccetera, a un certo punto creano cerume, e alle volte ne esce, ma alle volte rimane anche dentro, e per cui non è, allora bisogna intervenire dall'ottorino, capito, grazie. Ehi, aspetta che vado a sciacquarmi la bocca, e mi ho fatto lo spruzzo, anche se no rimane a bocca aperta, aspetta. Ha già compreso, va bene, sono qua. Giulio! Sono qua, mi stavo ascoltando. Adesso stavo ascoltando al baracchino. Sul 10 e sul 23 non c'è nessuno. Sul 20 c'è gente. Va bene. E allora, sciacquatela la bocca. Cosa ti hai spruzzato? L'affare per la gola? C'ho lo spruzzo per non stare sempre con l'ossigeno, capito? Sì, devo spruzzare quei su bronco, come si chiama? Si chiama Trimboi, è a base di cortisone. Caspita, quello sì. E beh, cosa ti fa? Ti fa l'effetto stesso dell'ossigeno? Sì, mi apre le vie respiratorie, però è a base di cortisone questo. Lo faccio la mattina e la sera, capito? E così non faccio neanche l'aerosol. Capito? Mi agevola un po' subito. Se mi viene proprio che non respiro, quello lì mi fa respirare subito. Ho capito, sì, ho capito. Vabbè, d'altronde, grazie. Però non è che lo puoi usare molto, se è cortisone non è che lo puoi usare sempre, no, quello. Così una volta ogni tanto, quanto? Una volta, due volte al giorno, non di più. Allora, praticamente devo usarlo la mattina, due spruzzi la mattina e due spruzzi il pomeriggio, la sera. E così evito di attaccarmi anche l'ossigeno. Perché quello mi libera, capito, mi fa respirare. Però quando arrivi in questo orario, se non me lo voto, mi si salta la cazzuna. Cioè, no, non mi entra aria, anche se vado a respirare. Vado a respirare, però aria non ne sento che entra, capito? Ho capito, grazie. Ho capito, purtroppo è una patologia che ce l'hai e te la devi curare sempre, si sa, ma comunque, interessante tirare avanti, grazie a voi, per il resto non è un problema, poca gente comunque frequenta stasera, poco fa c'era qualcuno su 10, c'era, ma stavano discutendo di cose, che non mi interessavano e non ci sono entrato, per cui va bene così, avanti ancora, grazie. Oggi è sabato, magari sono in giro a farsi la spesa, capito? Sabato è così, poi non sappiamo bene, la gente ne approfitta, capito? Se non mi battuisci mi devo attaccare l'ossigeno, ma con l'ossigeno è più a rilento, questo invece funziona immediato, capi? In caso di... se non me lo faccio e non faccio l'ossigeno, poi rimani soffocato perché non respiri, capi? Non entra aria. Certo. E la notte come fai? La notte quando sei a letto, come ti fai? Tutta la notte, da quando mi cocco, mi accendo il bombolone grande. Ci ho messo una prolunga perché fa rumore e l'ho messo nel salone e la prolunga arriva fino al letto dove colco io, no? E me lo metto nel naso e poi lo stringo, c'è un coso che sotto il mento lo stringi e mi rimane tutta la notte fino a quando mi scelgo, compreso. Ho capito, grazie. Vabbè, purtroppo. Purtroppo è un problema, però d'altronde così si deve fare, cosa vuoi fare? Non c'è niente da dire, perché purtroppo i mali vengono, arrivata una certa età, i mali ci sono. Continui il bambino. Dopo la quarantina, un dolorino ogni mattina. Ma finché si tratta di un dolorino può anche essere sopportabile, ma quando comincia a essere una patologia tipo quella è un po' pesante e ti capisco proprio, guarda, no, non ci sono dubbi. E vabbè, comunque, avanti, grazie. Di notte se non mi metto l'ossigeno e mi vieni giù corso, poi rimani qui secco, drumito, compreso. Ci rimane secco senza accorgertene neanche, addormentato. Lo so, purtroppo così, che cosa vuoi fare? Va bene, dai. Io, ripeto, ieri sono andato anche su Torino, avanti ieri ero al policlinico, mia moglie è stata operata alla cataratta, al ginocchio, e dunque adesso praticamente col tampone, eccetera, no? Per un po' di giorni, e dopodiché comunque sta migliorando, non, di giorno in giorno sta migliorando, perché si è operata. Dunque noi ieri si è andata a fare la medicazione, avanti ieri è stata operata la cataratta al ginocchio, per cui è andata così, e così bisogna fare, la cosa ci vuoi fare. Ci ha impiegato dall'una, è riuscita alle 6:30 la sera. Già lo so, l'ho più provato io, all'età di 23 anni, e non come stavano. Ma ne bocci, un anno, va un oggi, che ero lì al policlinico, un anno, tra... In ospedale c'ero 6 mesi fisso, fino di più tutto. E un anno per l'altro occhio, sinistro e destro. Ma prima non c'era la tecnologia che c'è adesso, capito? Avanti non vado in giornata, prima era tutto diverso, ma trattavano in massa per scalpello, a bucatini la retina, per la catalata, per carità, ui, tu lo rarete ma ne vado un bassaio, boh, ero cieco. Oggi la tecnica è diversa, grazie, è tutta un'altra musica. No, guarda, l'intervento è durato 5 minuti, non di più, 5-10 minuti. Solo che c'era tanti altri interventi prima, e dunque hanno dovuto... È più lunga la preparazione, è l'attesa che devi fare, che è l'intervento stesso. L'intervento in se stesso, 5-10 minuti è fatto, no? Non è che ci impiegano molto. Però se ce ne sono altri pazienti prima di te, perché loro lo danno l'appuntamento tutti alla stessa ora, da voi arrivi prima bassa, capisci com'è? Non capisco poi per quale motivo diano l'appuntamento sempre a tutti quanti alla stessa ora, ma comunque vada come vada, andamelo a te. Oh Giulio, mi assento 5 minuti che vado a fare l'insulina a quella signora. Va bene, grazie, dai, allora ci sentiamo domani, dai, adesso sono già le 7:20 quasi, per cui tra una cosa e l'altra minimo ci pieghi un quarto d'ora, perciò stai andando a fare un ginecolo, qua gli ho compreso. Ciao, grazie della chiacchierata, ci sentiamo domani eventualmente, ok? Saluti in casa, saluta mia Paoletta, ciao. Va bene, infatti, dipende da come è messa la paziente, capito? Ci sentiamo, ciao Giulia, domani mangio a scrocco, sono invitato da mia figlia, bello bene, ciao! Ok, ciao, grazie, ciao. Ehi, quando si va invitato dalle figlie o dai figli, non è mai a crocco, da che tu li invidi le fatte mani, per cui va bene così. Ok, ciao, grazie di nuovo, alle prossime, ciao ciao, chiudo. Ciao ciao.